Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ci occuperemo chiaramente ancora dei risvolti, perché ci sono dei risvolti dopo l'incontro di ieri tra Angela Merkel e Matteo Renzi. In realtà vari giornali citano un'ipotesi su cui starebbe lavorando la Germania, di una Europa, di un nocciolo duro europeo dei paesi fondatori, prendendo atto del processo, non dico di disgregazione, ma di forte frantumazione, per essere buoni, dell'Unione Europea in questo momento. Nel giorno in cui però Deutsche Bank va sotto indagine a Trani per manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani. La vicenda è quella del 2011, ricorderete lo spread che schizzava oltre i 500 punti, le dimissioni del governo Berlusconi, un rischio vero e proprio sul debito italiano e la curva dei rendimenti che a suo tempo si invertì. Cosa vuol dire? Vuol dire che rendeva di più prestare soldi allo Stato italiano a breve che non a lungo termine. Questa è un'anomalia e si verifica solo quando non si ha fiducia nella tenuta dei titoli di Stato e quindi dei conti pubblici di un paese, quindi si va a prendere un rendimento più alto nel breve e sul lungo. L'interrogativo è, boh, cosa succederà? Ecco, questo avvenne nel 2011. Perché ne parlo? Perché secondo l'accusa della Procura di Trani, Deutsche Bank in tre pubblicazioni nel periodo febbraio-marzo 2011 definì sostenibile il debito sovrano dell'Italia, ma nel frattempo andava a vendere 7 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, quindi nascose ai mercati finanziari le sue reali intenzioni di ridurre subito e drasticamente i titoli italiani in portafoglio. Questa è una vicenda che riguarda una banca nella sua filiale italiana, però, o meglio, una banca che ha anche una presenza in Italia. Però, visto che Deutsche Bank viene da noi citata, e non solo da noi, spesso per la quantità di titoli derivati da molti definiti tossici che ha in portafoglio e che ha in pancia, anche perché abbiamo fatto notare più volte che i tedeschi sono molto bravi a porre così i puntini sulle i sulla composizione, la percentuale di titoli di Stato presenti nelle banche italiane o spagnole o di altri paesi, poi sono molto meno attenti quando si tratta di valutare il rischio di altri investimenti non in titoli di Stato presenti nelle banche tedesche. Noi sappiamo, ce l'ha detto il ministro dell'economia Padoan due settimane fa, che la percentuale di 20% circa in Italia contro un 40% di derivati in media nelle banche tedesche, che incredibilmente vengono conteggiati come non rischiosi o poco rischiosi per una pressione che la Germania ha fatto sull'autorità bancaria europea, mentre la stessa Germania vorrebbe che si iniziasse a mettere anche un principio di rischio nell'investimento in titoli di Stato da parte di una banca, che vorrebbe dire un disastro sul fronte della patrimonializzazione, perché vorrebbe dire accantonare altri soldi sull'eventuale rischio dei titoli di Stato. Si è fatto notare, l'Europa ha respinto questa proposta, si è fatto notare che insomma, se il titolo di Stato deve avere un rischio, a quel punto non c'è neanche più l'Europa, se devi pensare che la Spagna o l'Italia o la Francia siano a rischio sul loro debito. Ma oggi uno studio di Mediobanca Securities ha provato a calcolare l'impatto che avrebbe sui bilanci delle grandi banche europee un'armonizzazione, quindi del modo in cui vengono valutati i rischi nei vari investimenti finanziari. Le più penalizzate sarebbero, guarda un po', le banche del Nord Europa. E una banca come Deutsche Bank, per sostenere questi indici, per mantenere invariati gli indici di solidità patrimoniale, dovrebbe aumentare il suo capitale di 26 miliardi di euro. Barclays di 22, UBS di 5, Credit Suisse di 8 miliardi, BNP Paribas di 22 miliardi. Questo se si dovessero armonizzare i criteri di rischio. Vorrebbe dire un aumento delle un aumento di capitale nelle banche citate, nelle banche comunque soprattutto del centro nord Europa, di 150 miliardi. Questo per dire che poi ci sono due pesi e due misure, e anche di questo parleremo. Qualcuno di voi vuole un commento su Weidmann? No, lo faremo più avanti, c'è poco da dire. È stato uno degli interventi più forse intempestivi di un governatore della banca centrale, che viene all'ambasciata tedesca a Roma la settimana scorsa e spiega all'Italia come comportarsi. Io speravo che venisse insomma a Roma per raccontarci quanto in salute è Deutsche Bank o Commerzbank, che controlli fa la Bundesbank sulle banche, sui derivati, insomma, no, invece no. I problemi sono sempre quelli degli altri. La classifica di oggi ci sarà, è una classifica anche bella corposa, ahimè, dovremmo dare degli ex aequo nella poco invidiabile classifica di Focus Economia. Su questo, visto che siamo alle notizie, già le notizie in breve, segnalo anche che la borsa è negativa a Milano come più o meno a Parigi, meno 0,80 a Milano, meno 0,70 a Parigi, invariata a Francoforte, Londra meno 0,40, Dow Jones meno 0,26%, euro a quota 1,14, va bene il Banco Popolare oggi più 2,70, Monte dei Paschi più 1,60, come Pop Emilia Romagna, Ubibanca più 0,80, Pop Milano più 0,60, invece Finmeccanica perde il 3,5, Finmeccanica Leonardo come si chiamerà, CNH Industrial meno 3,5, Hughes Net a Porter meno 3, Unipol meno 2,70, Ferragamo meno 2,30 come Exor e Fineco Bank. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, parleremo anche di Leonardo Finmeccanica, penalizzata dai dati che hanno mostrato un buon utile in realtà al terzo trimestrale, ma deludenti secondo gli analisti i ricavi e i margini. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la Grecia, la vicina greca, perché il Fondo Monetario Internazionale oggi ha detto ai ministri delle finanze dell'area euro che o iniziano i negoziati sulla riduzione del debito greco, nonostante l'opposizione della Germania, oppure il Fondo Monetario abbandona il tavolo delle trattative. Lo ha scritto la stessa Lagarde ai ministri di tutte le finanze dell'area euro. La questione deve essere messa immediatamente sul tavolo, si rischia di perdere l'adesione del fondo al programma di salvataggio della Grecia. Il Financial Times, che riporta questa lettera, osserva anche che appare chiaro in questa lettera come il Fondo Monetario Internazionale, dicesi Fondo Monetario Internazionale, quello che per anni è stato giustamente, in alcuni casi anche in maniera esagerata, indicato come grande fautore del monetarismo, dell'austerity, pensate all'Argentina, delle ricette fatte di lacrime e sangue, chiede meno austerità per la Grecia. Spiegando che l'obiettivo di un avanzo primario concordato da Atene con l'Unione Europea al 3,5% è irrealistico, cioè possiamo scrivere anche 8%, a differenza da quanto entra e esce prima di pagare gli interessi sul debito, e dovrebbe essere ridotto. E quindi dice, insomma, attenzione, chiedete alla Grecia delle cose più realistiche e meno irrealistiche. Nel frattempo, oggi la Welt scrive che mai il fossato tra Draghi e i tedeschi è stato così profondo come in questo periodo. Era stata di nuovo la Bundesbank a mettere inutilmente in guardia dalle conseguenze di una decisione controversa della Banca Centrale Europea, riferimento all'abolizione della banconota da 500 euro. Ricordando che l'abolizione della banconota da 500 euro viene giustificata come lotta contro il riciclaggio, criminalità, lavoro nero e terrorismo, ma l'argomento non convince. Rinomati economisti tedeschi ritengono a ragione che a Draghi in realtà interessi spingere ancora di più i tassi di interesse nella sfera negativa. E il passo successivo sarebbe di introdurre un tetto per i contanti come ambito della Banca Centrale Europea. Allora, tutte le opinioni sono legittime. Faccio notare che non è che siccome alcuni economisti tedeschi dicono così dobbiamo tutti dare ragione ai tedeschi. Che la banconota da 500 euro fosse stata indicata da varie autorità anticorruzione come una banconota che agevolava traffici illeciti di capitali, e non ci vuole un genio per capirlo, in una valigia di banconote di 500 euro riesci a portare un grande capitale, lo dicono, ripeto, varie autorità antiriciclaggio e anticorruzione. Che la Welt scriva tanto ormai la criminalità organizzata usa altri metodi, sì, può essere vero, però attenzione, perché il contante invece viene ancora usato e tantissimo dalla criminalità organizzata, e se usa altri metodi io potrei rispondere per converso, allora perché rompere le scatole sulla banconota a 500 euro? Ma insomma è chiaramente frutto di un nervosismo tedesco, perché i tedeschi sono un po' come quelle persone che quando non fai esattamente quello che dicono loro non accettano la cosa. Parlo del governo tedesco, non dei tedeschi come popolazione, e anche della Bundesbank. Cioè il fatto che in un'Europa ci possa essere una visione corale di diversi anche soggetti plurali, in questo senso non passa, perché o fai come dice la Germania o sennò l'irritazione tedesca, ma io non so. Comunque, gli indagati per quello che riguarda Deutsche Bank sono i vertici della Deutsche Bank stessa e sono 5 per manipolazione di mercato, e sono da un lato l'ex presidente di Deutsche Bank Josef Ackermann, gli ex co-amministratori delegati Aunschmann, Hein e Jürgen Fischen, quest'ultimo è attualmente co-amministratore delegato uscente, l'ex capo dell'ufficio rischi Ugo Banzinger e di Stefan Krause, ex direttore finanziario ed ex membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank. Deutsche Bank ha risposto che sta collaborando con le autorità italiane. Veniamo però, oggi la puntata sembra monotematica, ma è così la giornata, perché oggi di Germania ha parlato anche il ministro Padoan, che ha detto: io non ho niente da l'Italia non ha niente da rimproverarsi, non lui, è uno dei paesi che sta facendo più riforme strutturali, ha uno anche dei maggiori avanzi primari di bilancio, stiamo crescendo e abbiamo conti pubblici sostenibili. Francamente non capisco le critiche arrivate dalla Germania e in particolare dal presidente della Bundesbank Hans Weidmann. La tempistica sul calo delle tasse è nota, non bisogna affrettare. E visto che siamo in Italia, avete letto sui giornali, era già terminato il programma, era ampiamente sera, quando a Veneto Banca, a sorpresa in qualche modo, anche se ieri avevamo spiegato che era un testa a testa, ha vinto la lista guidata da Stefano Brosini, e quindi molti dicono con maggior discontinuità rispetto all'altra lista, però ci sono già domani molti punti nell'ordine del giorno per il Consiglio di Amministrazione, ha specificato oggi il nuovo presidente Stefano Brosini. E anche sul versante della Banca Centrale Europea sarà una questione seguita con estrema attenzione. Cominceremo a parlare di tutte le cose importanti, Francoforte davanti un lungo weekend di stop bancario, e poi si riprenderanno le interlocuzioni. L'ipotesi Veneto Banca, poi ha sostenuto Ambrosini, è diversa dalla Popolare di Vicenza, perché differenti sono i fondamenti economici delle due banche, quindi un'integrazione con Vicenza è prematura. E l'azione di responsabilità, con buona pace di chi, come gli ex presidenti, gli ex vertici, vuole invece, mi riferisco a Consoli, che da quello che si era capito ieri avrebbe dato mandato ai legali di fare causa contro il congelamento dei 3,5 milioni di buonuscita, di bonus concordati. Dicevo che invece Ambrosini ha fatto sapere che l'azione di responsabilità arriverà in tempi rapidi. Giustamente anche caldeggiata dalla politica, è un dovere fare un'azione di responsabilità verso i vecchi amministratori, anche verso l'opinione pubblica, oltre che verso gli azionisti. Ma su Veneto Banca, Banca Intesa ha detto che non avrà azioni nell'aumento di capitale di Veneto Banca. Saremo felici, ha detto il numero uno di Intesa San Paolo Messina, se avrà successo sul mercato, altrimenti vorrà dire che vi entrerà il fondo Atlante. Oh, prima di arrivare adesso alla classifica, alla poco invidiabile classifica, i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, sono oggi su un tema apparentemente marginale, ma spesso ci viene chiesto dove investire e la liquidità eccessiva. Beh, c'è un settore, mi rendo conto che possa sembrare una cosa più marginale, un settore dove in realtà l'investimento può essere fatto, ha dinamiche interessanti. Oggi su Sole 24 Ore mi riferisco ai diamanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Un diamante per sempre, ma anche se cambia idea non c'è problema. Il riacquisto di un diamante da investimento è infatti garantito a chi lo ha comprato. Un po' per la crisi di fiducia sulla borsa, un po' per l'inutilità di un investimento a rendimento zero o addirittura negativo in BOT, BTP, bonus spagnoli o bund tedeschi, decine di migliaia di risparmiatori italiani stanno letteralmente correndo in banca non per comprare obbligazioni a rischio di bail-in, ma per acquistare un diamante da investimento. Proprio così. Le gemme da investimento, da non confondersi quindi con i più pregiati e costosi famosi diamanti da gioiello, sembrano ormai entrate nella lista dei prodotti finanziari per tutte le tasche, non solo per la stabilità del mercato dei diamanti rispetto a quello dei bond e delle azioni, ma anche per il prezzo relativamente basso, dai 3.500 euro ai 20.000 euro, e soprattutto per un'opzione in più, il riacquisto garantito dal venditore. E nel mondo che cambia, soprattutto nel mondo dei tassi a zero, anche questo è uno dei risultati, ma soprattutto un risultato apparentemente legato alla crisi di fiducia su tutto ciò che è un asset finanziario. In Italia le società non sono ancora molte, ma quelle che esistono stanno facendo letteralmente affari d'oro. Proprio quest'anno, l'anno peggiore per i mercati. Continuerà il boom anche in Italia? Certamente bisognerà vedere se il recupero di fiducia sarà costante e si rivenderà, altrimenti è probabile che il diamante resti ancora a lungo, se non per sempre, un nuovo obiettivo di investimento. Prossimo appuntamento con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, lunedì alle 9. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, partiamo bassi come sempre, al quinto posto. E qualcuno mi sta scrivendo sui tassisti. No, guardi, i tassisti, no, a Milano immagino, lo sciopero di ieri, dell'altro ieri, all'improvviso l'agitazione. No, non rientrano in questa classifica, come non rientrano in questa classifica mai anche stipendi del settore privato. Lì ci sono gli azionisti e poi, se ci sono casi gravi, ne parliamo. Qui noi parliamo dello spreco di denaro pubblico, perché è denaro nostro. Dopodiché, guardate, non è che possiamo fare una puntata sui tassisti. Avete letto, volevano attirare l'attenzione sul pieno rispetto della direttiva contro Uber Pop. Per carità, dico solo due cose: in una città come Milano, ma in qualunque città, ma a maggior ragione una città che fa del terziario, dei servizi, dell'efficienza, gli scioperi si possono fare, ci mancherebbe, vanno annunciati. Lo sciopero selvaggio all'improvviso ha creato solo disagi e non è accettabile, non me ne frega nulla. Io, guardate, sono un grande cliente dei taxi, quindi posso parlare tranquillamente. So che qualche tassista la prossima volta che monterò su un taxi mi romperà le scatole su questo. Gli scioperi sono legittimi, si annunciano, si permette ai cittadini di organizzarsi, non si blocca una città all'improvviso senza un annuncio, niente, per poi per due giorni, per poi ritrattare. Avendo, questo mi dispiace per voi, ma l'ho visto con i miei occhi, come grandissima e unica conseguenza che decine di persone che non conoscevano il servizio Uber e Uber Pop si sono rivolte con il telefonino a questo, ok? Perché quando, se tu ti puoi organizzare, prendi il tram, prendi l'autobus, ti fa venire a prendere, prendi la macchina, ma se non ti puoi organizzare, resti a piedi, è chiaro che ti rivolgi ai servizi alternativi. Quindi chi anche non conosceva Uber, grazie alla manifestazione dei tassisti milanesi, adesso la conosce. Chiuso con i tassisti, ripeto, lo sciopero si fa, ma improvviso, spontaneo, bloccando gente che arriva in stazione, gente che dà all'aeroporto, che non era informata, è inaccettabile per qualunque categoria, anche i tassisti. Ok? Detto questo, andiamo avanti sul resto, perché al quinto posto della classifica che riguarda gli sprechi di soldi pubblici, dovremmo mettere assieme, però non ho tutto il tempo per leggere tutti i casi di, io non so cosa sia successo questa settimana ai vigili urbani, ma abbiamo, grazie al lavoro fatto come sempre da Barbara Bianchi e anche Mauro Del Cono, abbiamo trovato, insomma, indagati tre vigili urbani a Milano. Si sparavano dei pranzi luculliani al ristorante, sempre lo stesso, 11 volte, anzi, praticamente erano due agenti 67 volte uno e 73 volte l'altro, sempre al ristorante, e poi si facevano mettere gli straordinari la sera, che fa il paio con quanto accaduto a Bergamo, dove un vigile a Civitate Alpiano è finito nei guai perché era in permesso biennale stipendiato per assistere la madre malata a Taranto, Massimiliano Laruccia. Nel weekend rientrava nella Bergamasca e si trasformava in DJ per una discoteca di musica latinoamericana. Mi fa ricordare quell'altro caso di quello che era malato e poi aveva attacchi di diarrea e andava a ballare a samba. E poi ce n'è un altro, un dipendente del comune di Carmagnola, ma noi li racconteremo tutti. Per due anni nessuno si è accorto che lui praticamente si dimenticava di timbrare il cartellino e andava in palestra. Ma ripeto, abbiamo altri casi di giudici, di vigili, non di giudici, scusate. Ma vorrei andare subito al quarto. C'è poi un caso di un sindacalista a Palermo che dovrà ridare, è un dipendente della CRIAS, ha goduto di migliaia di ore di permessi retribuiti senza fornire alcuna giustificazione, e la Corte dei Conti ha stabilito che Domenico Pirracchio deve restituire all'azienda dove lavorava 90.000 euro di permessi sindacali avuti senza motivazione. 96 giorni nel 2003, 103 nel 2004, 41 nel 2005, 500 ore nel 2006, 600 ore nel 2007. No, vorrei andare su cose un po' più alte come ciccia, e partiamo al quarto posto con una vicenda che, voglio dire, sembra uscita da uno scherzo. Allora, qui c'è un signore che si chiama Franco Bastia, che ha perso tutto, la casa, tutto, durante il terremoto in Emilia Romagna del 2012, quello che seguimmo anche con un'iniziativa specifica di Radio 24. Casa distrutta, disperazione, riesce a risollevarsi con il contributo della Regione Emilia Romagna, che stanzia per la ricostruzione dell'abitazione, del terreno del signor Bastia, praticamente 511.000 euro. E finalmente arriva la felicità, perché sostanzialmente dopo aver fatto 4 anni in un prefabbricato da 20 metri quadrati, che ha pagato di tasca sua per dare un tetto a lui e alla moglie, ha visto crescere la casa nuova, e finalmente gli arriva la comunicazione della ditta Domus Gaia di Udine che entro un mese la nuova abitazione sarebbe stata agibile. Tutto bene, diciamo, bel caso virtuoso. No, perché nel frattempo ci si accorge che la casa appena ricostruita si trova lungo il tracciato della nuova Cispadana, e cioè l'autostrada regionale Cispadana, che dovrà sostanzialmente, se ho ben visto, collegare la parte di Ferrara Nord con Verona e il Brennero. Ora lo comunica la stessa ARC, autostrada regionale Cispadana. Deve passare lì, per cui la quarta casa di via Colombarina Imperiale deve essere demolita. Gliel'hanno appena consegnata, non sto scherzando. Voi direte, ma è una cosa nuova questa autostrada? No, perché i lavori inizieranno nel 2017, l'esproprio deve arrivare prima. Quando fu data la concessione per la nuova casa, al comune sapevano già tutto, e sapevano anche che lì sarebbe passata la nuova autostrada. Bastava spostarla di 700-800 metri, o la casa all'autostrada. Per cui 500.000 euro dati al signore, 500.000 ce ne vorranno per abbatterla a conti fatti. E tra l'altro aspetta una risposta Bastia, uno spreco inutile, doveva essere una statale a due corsie, ora diventa nel progetto un'autostrada a sei corsie. Vabbè, tra Ferrara Nord e con Verona, vabbè, ma voglio dire, ma vi sembra normale che uno si vede consegnare la casa dalla regione, che poi, diciamo, un ente della stessa regione gli comunica poche ore dopo che la casa dovrà essere abbattuta? Io vi chiedo se è tutto normale, e siamo ancora a pochi soldi, 500.000 per costruirla, 500.000 per abbatterla. Andiamo sempre in un crescendo di soldi pubblici a Palermo. Oh, vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo raccontato della povera sovrente direttrice della casa di Pirandello, che non riusciva ad avere neanche 18.000 euro, le erbacce, l'acqua, le crepe, il soffitto che crollava, uno schifo, bagni senza carta igienica. Cioè, lei per ricordare la nascita di Pirandello aveva chiesto 18.000 euro, ma non sapeva se li avrebbe avuti, no? Tanto la casa di Pirandello chi se ne frega, è solo il premio Nobel, uno dei premi Nobel della letteratura, ed è siciliano. Perché lo dicevamo? Perché è da anni che raccontiamo gli sprechi di questa regione. Allora sentite questa, c'è un istituto regionale per il credito, si chiama IRCAC, che sembra quasi un insulto, IRCAC, è l'istituto regionale per il credito alla cooperazione. Praticamente ha dei super stipendi e un tasso di produttività che è un pochino più basso di quello che si registra nel Guangdong o in Vietnam, nel senso che riesce a sbrigare per ogni dipendente tre pratiche all'anno. Allora, lui costa l'IRCAC 4 milioni e mezzo di stipendi all'anno e riesce a erogare finanziamenti per 7 milioni e 3, che già dice, vabbè, insomma. Ha 60 dipendenti che, ripeto, hanno smaltito una media di 3 pratiche di finanziamento a testa negli ultimi anni, cioè ogni anno 3 pratiche, per cui lì vanno, secondo me, a quadrimestre. Primo quadrimestre, una pratica. Secondo quadrimestre, un'altra pratica. Terzo quadrimestre, una pratica. E raggiunto l'obiettivo. Ripeto, c'è il direttore Vincenzo Mini che ha una retribuzione lorda di 160.000 euro l'anno, un dirigente Elisa Di Francesco che ne becca 140.000 euro lordi l'anno, una giornalista Donatella Palumbo che ha un compenso di 100.000 euro lordi l'anno, 18 funzionari che costano 2 milioni di euro l'anno, 31 impiegati ne costano 1.800.000 e altri 8 dipendenti. Appunto riesce a erogare 170 pratiche l'anno, praticamente 3 a dipendenti. Dovrebbe essere, gli stanno tagliando i fondi, quindi se non chiudono anche l'ente resteranno solo gli stipendi da pagare, come alla CRIAS, che è l'altro ente regionale per il credito alle imprese artigiane. I dipendenti qui sono 80, il costo delle retribuzioni di 6 milioni di euro. L'unico dirigente con stipendio elevato è il direttore generale Lorenzo Giardina, con un compenso di 150.000 euro lordi. Però quello che è inspiegabile, a parte che non risultano approvati i bilanci 2003-2004, cioè un ente che non approva bilanci per alcuni anni è pazzesco, ma poi nel 2015 sono state date mansioni e promozioni a tutto il personale in servizio. Per fortuna hanno appena revocato la delibera, nonostante l'ente, il CRIAS, vanti crediti in sofferenza per 106 milioni di euro e ha dovuto pagare avvocati esterni nel numero di 300, non sto scherzando, ha pagato 375 avvocati esterni per 11.000 pratiche. La domanda è: che cavolo fanno gli 80 dipendenti? Cioè, nessuno riesce a difendersi? Dice tra l'altro l'assessore Lobello, dice: ho chiesto l'elenco dei nominativi degli avvocati che hanno ricevuto incarichi, ma ancora non mi hanno dato risposta. E tutti i dipendenti hanno fatto causa per avere una promozione all'IRCAC e alla CRIAS invece c'è un numero elevato di incagli. Quindi segnatevi questi due nomi: IRCAC, dove tutti i 60 dipendenti vogliono una promozione, e il CRIAS, dove nonostante gli 80 dipendenti, per le pratiche si fa ricorso a 375 avvocati e non si vuole ovviamente comunicare la lista dei nomi di questi avvocati e la privacy. Meteo, e poi andiamo al secondo e al primo posto. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Allora, terzo posto. Oh, c'è un ascoltatore che mi scrive: vabbè, meno male che non c'è, che oggi non c'è Pavesi, immagino Fabio Pavesi, così non ci rovina la fine settimana. A me dispiace dare una brutta notizia, c'è anche Pavesi oggi, perché con lui parleremo dell'articolo che ha fatto su Sole 24 Ore sui rischi sottostimati delle banche del Nord Europa, quello a cui facevo riferimento prima. Per cui, insomma, spero che non avesse un gran fine settimana previsto. Allora, andiamo al secondo posto, dove ci spostiamo a Milano. Perché lo dico? Perché ci sono 56 unità immobiliari suddivise in 6 piani, praticamente aveva anche lo spazio per 36 posti auto, 18 box, anche 3 negozi e piano terra. Cosa doveva essere? Ed è costato 14 milioni di euro. Doveva essere il secondo edificio, la seconda residenza temporanea per studenti a Milano. Ce n'è già una, è l'edificio gemello in via Attendo lo Sforza al 6, che funziona regolarmente. Sapete perché è ancora, dopo 6 anni è ancora chiuso e inutilizzato? Per un mancato cambio di destinazione d'uso. Ma qualche cavolo di dirigente per sta roba qua, paga o non paga? Perché lo ricostruisce la vicenda un manager dell'azienda regionale Aller, che vuole restare anonimo. Praticamente l'Aller, l'azienda regionale della regione Lombardia per l'edilizia popolare, fu acquistato l'edificio nel 2010 per 14 milioni di euro dalla società Mediane SRL ed era una delle realizzazioni della Galassia Ligresti. Praticamente è uno degli edifici però di quelli acquisiti dalla Asset SRL finiti nel mirino della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale per debiti mai ripianati e adesso l'ha messa in liquidazione. Praticamente quello che emerge adesso è che il cambio di destinazione d'uso mai avvenuto è quello che ha reso impraticabile l'edificio, che è rimasto chiuso per 6 anni. Infatti l'edificio risulta ancora catastato con destinazione uffici e laboratori. La trattativa portata avanti con la Fondazione Collegi dell'Università Milanesi si è arenata e attualmente è in corso un contenzioso tra Fondazione e Aler. Nel frattempo però l'azienda regionale ha fatto sapere che l'edificio, come tutti quelli che fanno capo alla Asset SRL, è in vendita perché la società è in liquidazione. Quindi sostanzialmente, se ben capisco, anche o si arriva a un accordo negli ultimi minuti, o se no per 6 anni l'hai tenuto chiuso e adesso lo vendi. E 14 milioni ci è costato e gli studenti non ci hanno dormito. Tutto a posto, mi sembra, no? Non manca neanche un tassello. Visto che siamo in Lombardia, so che alcuni di voi si aspettano che noi mettiamo al primo posto Formigoni. Beh, Formigoni, insomma, oltre ad avere battuto un nuovo record di, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, nel processo, che ha visto anche un rinvio, una richiesta del PM Laura Pedio, mi raccomando, c'è sempre la presunzione di innocenza in questo paese, la richiesta del PM, condanna a 9 anni per associazione delinquere e corruzione. E il processo che vede dentro, oltre che Formigoni, anche i suoi, secondo l'accusa, sodali nel gestire la sanità lombarda e quindi faccendiere per Angelo Daccò, e da un lato, e anche altri soggetti, Daccò viene tirato in ballo anche per la Fondazione Maugeri assieme all'ex assessore Antonio Simone. Vabbè, noi già nella settimana scorsa abbiamo fatto notare che Formigoni aveva toccato un record incredibile: per 10 anni non aveva speso un euro dei soldi del suo conto corrente, perché è uno degli elementi che vengono portati dal PM a dimostrazione che riceveva altre forme di dazione. Nel conto corrente gli veniva addebitato lo stipendio, ma non spendeva un euro, e lui ha detto: ho speso i soldi di un'eredità che mi ha lasciato mia madre. Il problema è che sua mamma deve avergliela lasciata tutti in contanti, altrimenti i PM avrebbero trovato i movimenti bancari, quindi immaginiamo casse di contanti. Ma non c'è questo, perché Formigoni adesso si è beccato da parte della regione Lombardia e quindi dell'attuale governatore Roberto Maroni un ricorso. Ha chiesto alla regione Lombardia 5 milioni e 600 mila euro di danni a Formigoni attraverso il suo legale Domenico Aiello, un risarcimento di danni 5 milioni e 620 mila euro per i danni subiti dalle casse regionali per la vicenda di cui è imputato Formigoni e quindi tutta la gestione della sanità. Il legale ha spiegato che sul sistema corruttivo ci sono riscontri processuali e che, pur restando la sanità lombarda un'eccellenza, c'è stato un accordo corruttivo e deve esserci un risarcimento a favore della regione Lombardia. Tra l'altro l'hanno quantificata in 3 diverse utilità e quindi che sarebbero andate come prezzo della presunta corruzione al pubblico ufficiale e quindi all'ex presidente della regione Lombardia. L'avvocato Aiello ha precisato che non sto chiedendo i 61 milioni di euro che dalla Fondazione Maugeri sarebbero andati ai presunti intermediari, né i 9 milioni che dal San Raffaele sarebbero andati sempre agli intermediari. Faccio notare che la Fondazione Maugeri è poi finita in rosso per 80 milioni di euro e il San Raffaele, non solo per questa vicenda, ha creato un buco di oltre 1 miliardo di euro. Ma come provvisionale immediatamente esecutiva chiediamo 5 milioni e 620 mila euro di presunte utilità. I tre generi: 3 milioni e 700 mila per l'utilizzo delle imbarcazioni messe a disposizione dal faccendiere Pierangelo Daccò tra il 2007 e il 2011, messe a disposizione di Formigoni. Ve la ricordate? Quella che si faceva, ognuno portava il suo, e che lui portava le gomme e la sigaretta. E poi 1 milione 300 mila euro di maxi sconto sull'acquisto di una villa in Sardegna, che era di Daccò. E una terza parte di utilità costituita da soldi consegnati in contanti, a cui si aggiungono 600 mila euro per il finanziamento di una campagna elettorale e l'acquisto di biglietti. E comunque 5 milioni e 600 mila euro, fa notare l'avvocato, sono più bassi rispetto agli 8 milioni contestati dall'accusa a Formigoni. Poi l'avvocato della regione ha chiesto che i giudici riconoscano anche il risarcimento danni legato al profitto del reato. Una provvisionale di 3 milioni e mezzo è stata chiesta dall'Agenzia delle Entrate per danni patrimoniali di immagine al faccendiere Pierangelo Daccò e all'ex assessore Antonio Simone e all'ex direttore finanziario della Fondazione Maugeri, imputati a Milano insieme a Formigoni. E anche questa richiesta è stata avanzata in denaro dall'avvocato Gabriele Vanadia, che ha ritenuto di differenziare le posizioni di Daccò e Simone. Comunque, Formigoni, oltre che risparmiare, si becca anche il primo caso di una regione che chiede un risarcimento a chi presiedeva quella regione. Non è però il primo posto. Primo posto, chi ha letto oggi Corriere della Sera sa già dov'è, dove andiamo, perché è un paese bellissimo questo, Però ve lo raccontiamo come ultimo in classifica, come primo in classifica, dopo il traffico. Focus Economia. And the winner is... la Galleria Fantasma, tanto molti di voi avevano capito, la Grosseto Fano, strada di congiunzione del Tirreno con l'Adriatico. Chi di voi ha mai dovuto per lavoro o per diletto andare dalle due sponde, cioè dal Tirreno all'Adriatico, dall'Adriatico al Tirreno, sa che cosa vuol dire. È molto bella, è un'esplorazione di monti, di strade provinciali, compri il tartufo d'estate, c'è di tutto, diciamo che hai dei tempi di percorrenza da calesse, da carrozza, quindi non è una galleria di poco conto. Praticamente che cosa succede? Hanno iniziato a progettarla 50 anni fa, iniziano a costruirla nel 1989, deve congiungere la Grosseto Fano, il Tirreno con l'Adriatico, ma resta una via immaginaria, manca un pezzo qua, un pezzetto là, tratti a quattro corsie che improvvisamente svaniscono, diventano delle provinciali da toboga, non si capisce nemmeno quanto denaro abbia ingoiato. Praticamente almeno è costata 150 milioni di euro, c'è chi dice il doppio. Nell'89 l'ANAS comincia a scavare nel cuore dell'Appennino, poi stanzia 100 miliardi di lire, vecchie lire, e già qualcosa non va, perché iniziano ad esserci un po' di problemi. Non c'è la strada, perché tu scavi il tunnel, è un tunnel di 6 km, cioè è dall'89 che cerchiamo di fare un tunnel di 6 km, se prendevamo i 7 nani, secondo me avevamo già finito. Comunque, poi ci si accorge che mancano le strade di raccordo, no? Dalla parte dell'Umbria si arriva alla Guinza, si chiama così questa galleria, con un viottolo di curve dove due auto passano a malapena. Sul versante marchigiano si fa prima, manca del tutto la strada. L'opera è prevista in tre diversi stralci. Ci mettono 5 anni a fare il foro pilota, 5 anni per fare 6 km di foro pilota. Poi nel 94 tutto si ferma per altri 6 anni perché occorre il secondo stralcio. I lavori riprendono nel 2000, la galleria è pronta nel 2004, è grezza senza gli impianti e quelli vanno fatti nel 2000, nel terzo stralcio. Ma c'è un problema: nel 99 prende fuoco il tunnel del Monte Bianco, muoiono, ricorderete, 39 persone. Viene insediata una commissione d'inchiesta e sul disastro, affidata a uno dei maghi delle gallerie, l'ingegnere Pietro Lunardi, che poi diventa ministro delle infrastrutture del governo Berlusconi, quello che disse che con la mafia bisogna imparare a convivere, no? Tanto per ricordarci di lui. C'è un altro ingegnere assieme a lui, Vincenzo Pozzi, che dovrà sovrintendere i lavori di rifacimento del tunnel e che poi sarà messo da Lunardi a capo dell'ANAS. Tutto regolare, ci mancherebbe. Lunardi e Pozzi, Pozzi e Lunardi, la Guinza, insomma, è in ottime mani, anche perché un tunnel a canna unica, identico al traforo del Monte Bianco, quindi va adeguato nello stesso modo. Bisogna realizzare una via di fuga parallela e visto che bisogna fare un buco, perché non fare una seconda canna? Magari è Woodstock questa, e facciamo anche una seconda canna, sembra la soluzione migliore. Però c'è un problema più grosso: cambia la politica, non si vuole più puntare su quella galleria, c'è un decreto che pone come opera prioritaria il cosiddetto quadrilatero Marche-Umbria, un sistema viario trasversale più a sud. E nella società quadrilatero Marche-Umbria siede anche Ercole Incalza, il dominus delle grandi opere che si è dovuto dimettere, indagato, ma era il dominus delle grandi opere con Lunardi ministro. Come se non bastasse, nell'elenco delle leggi obiettivo compare anche un'opera assolutamente inutile, secondo la maggior parte degli esperti, l'autostrada Orte-Mestre, o Roma-Orte, di cui il concessionario è il futuro europarlamentare dell'UDC e quindi PDL, Vito Bonsignore. La Grosseto Fano sparisce dall'agenda, la Galleria della Guinza finisce nel dimenticatoio, addio alla seconda canna, meglio fumarsela. C'è chi organizza nella galleria appunto dei rave party, tanto è vuota la galleria, e nel 2012 interviene la polizia per sgomberare la galleria vuota da una segheria abusiva che era spuntata, voglio dire, il mito, no? Finché insomma arriva finalmente all'ANAS Gianni Vittorio Armani, nominato dal ministro delle infrastrutture del Rio, e decidono che qualcosa bisogna fare, e la galleria è ferma da 12 anni. Hanno già speso 150 milioni di euro, c'è chi dice 300, quindi adesso con una cifra fino a 1 miliardo e 800 milioni di euro, che è comunque un terzo delle vecchie stime, la Grosseto Fano si potrà finalmente completare la galleria. Poi il problema è come arrivare alla galleria, perché mancano 10 km di strada in Umbria e una trentina nelle Marche. Mi sa che ne riparleremo e ci risentiremo sulla Grosseto Fano. Detto, se prendiamo, avete ragione, se avessero preso, chiedo scusa, chiedo venia anche ai bambini in ascolto, se avessero preso i sette nani ci avrebbero messo meno tempo. Allora Lucia Lencioni, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ci tiri su lei il morale, perché lei, allora, qualcuno ci critica sull'appuntamento con chi ha lanciato un'impresa dicendo prendete solo i giovani. Beh no, prendiamo anche e soprattutto i giovani, perché con il futuro che hanno davanti apprezziamo ancora di più il loro coraggio. Comunque voi avete fondato Wearable Robotics, ma non siete tutti giovani, giusto? No, assolutamente, siamo di mezza età. Beh, lei adesso, non è elegante, ma lei quanti anni ha? Io 47. Ecco, lei è giovanissima, visto che neanche io. E invece gli altri soci? Diciamo che sono su per giù della mia età, e siamo sette soci, e ci sono due che sono ragazzi di Giovani Speranze, quindi più giovani, e poi su per giù sui 50, 45-50. Allora, noi ne riparliamo dopo il GR24. Mi dice intanto però che cosa fate, che cosa fa la Wearable Robotics? Sì. Sì, facciamo dispositivi robotici indossabili per l'assistenza al movimento e per l'amplificazione della forza. Ma, soprattutto in ambito biomedicale. Ma che è roba da Marvel? No, insomma, no. Mi dica. È roba per la riabilitazione, per la riabilitazione di pazienti che sono stati colpiti da ictus, oppure per l'ausilio alla deambulazione in pazienti che non riescono più a camminare. Quindi adesso al di là della battuta una cosa fondamentale, purtroppo ne so qualcosa anch'io, ci risentiamo dopo il GR24, qualcuno mi scrive che i sette nani erano boscaioli e non scavavano gallerie, ma adesso andiamo a verificare, perché su questo vogliamo essere molto precisi, io me le ricordo col piccone, comunque dopo il GR24 verifichiamo anche se i sette nani fossero boscaioli o invece scavassero gallerie. Resti con noi, dottoressa Lencioni, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Di nuovo in diretta, sì, i sette nani erano minatori, picconavano per cercare diamanti, quindi ci ricolleghiamo anche ai 100 secondi iniziali sugli investimenti in diamanti a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Lo dico a chi diceva, guardi che non potevano essere loro a finire la Grosseto Fano, visto che l'abbiamo iniziata nel 1989, la battuta è stata, avessimo preso i sette nani avremmo finito prima, anche perché col piccone quelli ci sapevano fare, eh. Allora, Lucia Lencioni, voi avete lanciato la Wearable Robotics, produce, se ho ben capito, esoscheletri da indossare. Cosa sono dei sistemi robotici per soggetti disabili o anziani, o anche per chi è in fase di riabilitazione? Sì, allora, il prodotto che abbiamo attualmente, che è un prototipo già industrializzato, è un esoscheletro per la riabilitazione degli arti superiori, che significa che il paziente che è stato colpito da ictus viene inserito dentro il dispositivo, la macchina gli viene indossa questo robot e il fisioterapista imposta il ciclo di riabilitazione, gli esercizi che deve fare, la macchina aiuta il paziente a fare questi cicli di esercizi per la riabilitazione dell'arto. Chiaramente cosa succede? La macchina può registrare i movimenti che fa il paziente, quindi può registrare anche ha una memoria, quindi il fisioterapista può impostare l'esercizio da far fare alla macchina, da far fare al paziente. Il robot può registrare i miglioramenti, può assistere il paziente nel raggiungere un target e si accorge se il paziente non riesce ad arrivare al target, lo aiuta a arrivare al target. Quindi ho capito, cioè, quindi c'è anche questo elemento ulteriore della memoria, per cui ricorda, e poi è inossidabile, quindi aiuta il movimento degli altri pazienti. È una cosa molto importante, sappiamo chi ha difficoltà ad deambulare, o perché è anziano, o perché è colpito da una disabilità, o perché in fase di recupero sulla deambulazione, è fondamentale. Voi avete anche vinto il premio Marzotto, i soldi li avete avuti da lì, 250.000 euro? Allora, nel 2013 abbiamo vinto il premio Marzotto come miglior idea di startup e ci hanno dato 250.000 euro. E questi sono serviti a fare lo startup della società. Infatti ci siamo costituiti come società nel 2014. Siamo sette soci che sono tutti di derivazione universitaria, infatti siamo uno spin-off. Voi siete uno spin-off, cioè un qualcosa che è nato dall'università, dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa? Sette soci, sì, cresciuti tutti all'interno di un laboratorio che si chiama Percro Lab, che è il laboratorio di robotica percettiva, quindi di robotica che interagisce con l'uomo. Quanti siete? Il laboratorio è circa una settantina di persone. No, ma adesso la società wearable. La società siamo sette soci che lavorano all'interno della società in maniera più o meno continuativa. Siamo quattro, perché due poi sono professori della scuola, quindi e poi abbiamo tre collaboratori che lavorano a tempo pieno per noi. I soldi, dicevo, oltre alla Fondazione Marzotto, che tra l'altro ho visto che quest'anno raddoppia anche il premio, bene, siamo contenti. Oramai noi però... No, non a voi, ovvero avete già preso nel 2013. Quanto avete fatturato quest'anno e quando prevedete, e qual è la vostra previsione sul fatturato soprattutto? Sì, allora noi nel 2014 abbiamo chiuso il bilancio 2014 200.000 euro, che è sostanzialmente il premio. 200.000 euro, che sostanzialmente era il premio Marzotto. Dopodiché abbiamo iniziato a vendere questo dispositivo, che attualmente però non è lo stiamo certificando CE, quindi per essere messo sul mercato, proprio per essere usato dai pazienti. Per adesso l'abbiamo venduto a centri di ricerca per la sperimentazione e quindi abbiamo chiuso il 2015 con 250.000 euro di fatturato, però era proprio vendite, e nel 2016 pensiamo di chiudere sui 350.000. Chiaramente man mano che riusciamo a vendere questo, a certificarlo, a venderlo proprio per pazienti, pensiamo di aumentarlo notevolmente, cioè abbiamo un business plan che mi dia la prospettiva, così chiudiamo su questo. Sperabilmente nel 2019 arriverà a 6 milioni di fatturato, nel 2020 16 milioni, speriamo chiaramente. Io ve lo auguro a lei, anche a Basilio Lenzo che ha 27 anni, Alessandro Filippeschi che ne ha 30, Fabio Salcedo che ne ha 52, a tutti i vostri collaboratori, in bocca al lupo veramente. Qualcuno mi scrive, non starai mendicando un tutor per il tuo malleolo Barisoni? No, non arrivo ancora a questo e comunque non lo faccio e non lo farei mai in diretta. Grazie, in bocca al lupo all'amministratore delegato di Wearable Robotics Lucia Lencioni. Allora, noi di solito non diamo messaggi di servizio, ma un ascoltatore mi scrive: di alla tua amica per domani sotto casa alle 8.15. Guardi che ha sbagliato numero, nel senso che se domani deve organizzarsi il weekend, scrive a me: di alla tua amica per domani sotto casa alle 8.15, lei rischia di passare un brutto weekend, le faccio un favore perché siamo in buona, perché rischia di non trovare né l'amica né il weekend, che non è un dettaglio nel weekend, adesso no. attenzione quando scrivete gli sms. Allora, vedo Fabio Pavese che ride, l'unica cosa per cui potrà ridere, visto che adesso parleremo anche di banche del nord Europa. Vi faccio io la borsa, meno 0,45% Milano, meno 0,42% Parigi, più 0,20% Francoforte, Londra più 0,14%, il Dow Jones invariato, tra i titoli CNH meno 2,84% e poi Finmeccanica Leonardo, che ha avuto una giornata di passione, perché non sono piaciuti gli analisti i margini individuati da una trimestrale che ha visto comunque andare bene l'utile, è arrivata a perdere oltre il 4%, e poi c'è attenzione sulla divisione elicotteri, debole nel primo trimestre dell'anno, debole oggi anche il settore lusso, Ferragamo meno 1,70%, Moncler meno 1%, Hugues Net-a-Porter meno 2,60%, perché questo? Perché insomma su Ferragamo soprattutto si fa notare un momento delicato sul settore, e su Ferragamo nello specifico ha annunciato infatti l'addio l'amministratore delegato Michele Norsa, e la trattativa dovrebbe essere con Eraldo Poletto, così ha comunicato la società stessa. Anche Tod's in perdita, ma molto meno, se la sto cercando perché mi è scomparsa Tod's, oggi ci sono un po' di problemi su Radio Core. Dicevo, su Tod's invece era sui giornali l'uscita del direttore creativo Alessandra Facchinetti, in recupero invece alcune banche, Banco Popolare più 4,30, Monte dei Paschi più 2,40, Pop Emilia Romagna più 2, Ubibanca più 1,30, Pop Milano più 1,1%. Su Monte dei Paschi pesano in maniera positiva i conti, l'utile che va sopra le stime nel primo trimestre a 93 milioni 200 mila euro per la banca guidata da Fabrizio Viola. Ecco, adesso vedo anche Tod's meno 1,7%, il calo di Tod's. Migliori e peggiori in assoluto della giornata ve li do subito. Sono Tewind più 7,70, SNAI più 5,70, TAS più 5,50%, fronte opposto Visibilia meno 10, Industria e Innovazione meno 6,60, AXA meno 5,50%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parliamo prima di Germania e di banche anche tedesche, e poi di Germania dopo l'incontro di ieri Merkel e Renzi, perché non si sono placate. Oggi il Welt scrive che mai i rapporti con Draghi sono stati così distanti tra i tedeschi e la Germania. Non si sono placate anche le polemiche dopo l'intervento, a mio avviso del tutto improvvido, di Weidmann all'ambasciata tedesca, che ha parlato dei casi nostri. Vieni in Italia e parli di come sta gestendo le banche tedesche. Se Visco fosse andato all'ambasciata italiana a Berlino a dire quello che doveva fare la Germania, avrei voluto vedere le reazioni. Su questo è tornato anche il ministro Padoan, ha detto non capisco le critiche tedesche, non abbiamo nulla da rimproverarci. Io invece vorrei però partire da un articolo sul Sole 24 Ore a firma di Fabio Pavesi, in cui si dice sostanzialmente, se ho ben capito, che se le banche tedesche del nord Europa dovessero avere un'armonizzazione dei criteri con cui viene valutato il rischio degli investimenti, quindi derivati soprattutto, dovrebbero loro fare aumenti di capitale per quasi 150 miliardi. Deutsche Bank dovrebbe aumentare il capitale di 26 miliardi, Barclays di 22, UBS di 5, Credit Suisse di 8, BNP di 22 miliardi. Dopo il traffico, Fabio Pavesi in persona ci spiega perché. Focus Economia. Allora, Fabio Pavesi, che cosa vuol dire che se armonizzassimo, cioè tutti calcolassimo in maniera uguale i rischi degli investimenti finanziari delle banche, dovrebbero fare dei grandi aumenti di capitale le banche del nord? Vuol dire che calcoliamo meno rischiosi gli investimenti in strumenti tossici derivati dopo quello che hanno creato nel 2008, e mentre la Germania chiede magari che si metta un po' di rischio anche in titoli di Stato, che è come dire che sostanzialmente guidare contromano in autostrada è meno rischioso che andare a piedi in un'area pedonale? E beh, proprio così. Mentre il credito è facile misurarlo, no? Tu dai 100 euro di prestito e devi accantonare il capitale a sufficienza per garantire quel credito. Quando il credito non torna è una sofferenza e quindi il rischio lì è ben misurabile. Quello che è meno misurabile è quanto rischio ho se ho dei derivati esotici in portafoglio o dei titoli strutturati o dei vecchi mutui subprime. Ecco, lì la normativa ha sempre glissato, nel senso che proprio perché è difficile misurarlo, di fatto non lo si fa, nel senso che sono dei modelli interni, cioè la banca dice per me questa roba qui vale 100 e il regolatore dice mi fido di te, cioè funziona così in questo momento in Europa. Cosa succede? Che basta guardare i patrimoni delle banche e scopri che le banche inglesi ad esempio, la Lloyds ha lo stesso capitale di Banca Intesa, peccato che è due volte più grande, Deutsche Bank è tre volte più grande di Intesa e ha capitale più o meno un poco più di Intesa. Allora vuol dire che banche grandi e piene di derivati, titoli, non vuol dire i derivati siano pericolosi a prescindere, però ci sono anche strutturazioni di derivati in cui lo stessa banca non sa quanto vale quel prodotto, cioè siamo a questi livelli, cioè ci sono livelli tali di sofisticazione finanziaria per cui la banca produce dei prodotti che poi non sa neanche prezzare. Domanda, e finora, prego, dimmi, no, vai, vai. Domanda, ma se, e tu lo spieghi molto bene oggi su Sole 24 Ore, quanto impatterebbe una revisione del rischio su questi investimenti, perché è comodo dire, cioè è comodo, è facile, se l'imprenditore fallisce o non ha più soldi, lì il rischio ce l'hai. Altra cosa è stabilire il rischio di un derivato, perché ci fu durante la crisi 2008-2009 un momento in cui non riuscivano neanche a far prezzo, non è che dicessero da 100 vai a 1, non riuscivano neanche a fare un prezzo, carta su carta. Perché però... Nonostante questo i tedeschi si ostinano a dire beh potremmo però iniziare a considerare anche il titolo di Stato come rischioso, cioè se io ho un tale problema in casa almeno sto zitto teoricamente. Infatti lì c'è una sorta di ricatto, cioè diciamolo chiaramente, per le banche del nord e lobby tedeschi inglesi è molto più semplice dire tu hai titolo di Stato in portafoglio, sei pericoloso perché sei legato al rischio paese, cioè se il paese va in crisi la banca va in crisi a sua volta. Io dico se fallisce il paese le banche falliscono di conseguenza. Qual è il tema? È che questa ossessività sui titoli di Stato nasconde in realtà un grosso alibi che le banche tedesche dovrebbero riconoscere, ad esempio, che hanno in pancia il 70% del bilancio loro, non è fatto da crediti, è fatto da titoli su cui fanno anche speculazione e trading. Lì c'è del rischio perché, ad esempio, ricordo solo, Dexia non si ricorda nessuno, banca franco-belga, fallita nell'arco di un mese, buco da 19 miliardi, da così era provocato, titoli tossici in portafoglio e finalmente erano stati svalutati. Oh, ne parliamo nel giorno in cui Deutsche Bank per altri motivi è sotto inchiesta a Trani per manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani per 7 miliardi di euro. Qual è l'accusa? Che mentre diceva con tre diverse pubblicazioni definiva sostenibile il nostro debito quando lo spread schizzava, nel frattempo con la mano sinistra vendeva 7 miliardi di euro. E quindi secondo l'accusa nascose ai mercati finanziari le sue reali intenzioni di ridurre subito e drasticamente i titoli di Stato in portafoglio e da questo poi sono indagati gli ex vertici Deutsche Bank. Ringrazio anche per averci raggiunto in collegamento Gian Enrico Rusconi, che da poco ha scritto e insegna scienze politiche all'Università di Torino, da poco è uscito il suo libro Egemonia vulnerabile, la Germania e la sindrome di Bismarck, casa editrice Mulino. Buonasera professore. Sì, buonasera a voi. La riavremo ospite, però io volevo un suo commento articolato e ampio sull'incontro di ieri Merkel-Renzi, perché apparentemente Angela e Matteo, però insomma secondo lei qualcosa, c'è chi oggi ipotizza che la Germania si stia convincendo di tenere assieme un'Europa, il nocciolo duro europeo tra cui l'Italia, i paesi fondatori, che stia capendo che se si va avanti così i cocci saranno anche suoi. Lei è di questa idea? Cioè che qualcosa stia mutando? No, secondo me al momento non muta niente, perché la Merkel è riuscita a sopravvivere a una grandissima crisi nell'inverno scorso, no, legata alla sua idea di accettare un milione di immigrati. Ha avuto momenti durissimi con la stampa che di solito era favorevole contro, sembrava addirittura alla vigilia di ritirarsi, e invece ha recuperato e adesso è tornata al suo mestiere. Mentre sentivo prima chi parlava delle banche eccetera, di cui personalmente sono incompetenti, Dicevo tra me e me, ecco, la Merkel è incompetente e, come dire, è dilettante, ma in senso positivo, perché era l'affermazione che faceva Max Weber per il vero politico, che non deve essere un economista, un banchiere, deve essere capace di avere tutti questi collaboratori. È esattamente quello che fa la Merkel, che manda avanti, tra virgolette, Weidmann, Schäuble per la Grecia, Steinmeier per la Russia, e lei sorride, è stupenda come persona, non nel senso estetico. Cioè, Weidmann arriva all'ambasciata tedesca a Roma la settimana scorsa, scarica una valangata di una cosa che non è cioccolato sul sistema italiano, non dice una parola su Deutsche Bank, che lui vigila perché è presidente della Bundesbank, su Commerzbank, sulle sparcasse tedesche, su come hanno salvato, neanche chiede scuse per i 250 miliardi di soldi pubblici dei tedeschi con cui hanno salvato le banche, e viene a fare il maestrino. Poi le dice, arriva la Merkel, fa un sorriso, dice Matteo, auf Wiedersehen. È un gioco delle parti, da come lo racconta lei. Certo, è chiarissimo, ma anche tra i due, perché cosa è successo? Si sono sorridenti reciprocamente, ma non è stata assolutamente elusiva, anzi negativa sulle cose che ha chiesto. Basta da pronunciare la parola bond, che lei subito dice no. E poi lui ha fatto anche una proposta che sembra sia stata accettata da Juncker e da Schulz, di questo Migration Compact, no? E lei ha detto no, insomma è sul negativo. Ma voglio aggiungere quello che è successo oggi. Io mi chiedo, e lo scriverò domani sulla stampa, come può la Merkel andare a casa e continuare la sua politica avendo sentito il Papa, che diceva cose assolutamente incompatibili con la sua linea, perché la sua linea è esattamente quella dei piccoli ritocchi, Schengen sì, Schengen no, Dublino sì, Dublino no, esattamente l'opposto di quello che dice il Papa. Dopodiché si può dire che sono andati per sentire, come dire, la predica della domenica, poi vanno a casa e fanno quello che vogliono, capisci? Sì, guardi Rusconi, però... alcuni dei nostri ascoltatori fanno notare che la Merkel va in Austria e dice agli austriaci che hanno ragione, viene in Italia e dice noi che abbiamo ragione, e sapete com'è, la ragione è come qualcos'altro, tutti ne hanno una. Non proprio così, In Austria ha mandato De Maizière, ecco un altro personaggio. Sono cinque persone che lei sta usando. Poi va e sorride, ma la cosa più, come dire, al limite è il modo col quale tratta Hollande. Ma qui c'è un discorso serio. La Francia, come dire, fa un po' quello che vuole, ma ha un complesso enorme verso Berlino. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato molte volte. C'è una complicità profonda, c'era già tra Merkel e Sarkozy, adesso è ancora peggio perché Hollande è più debole, l'abbiamo visto a Minsk, no? Che era dietro alla Merkel, ma la Merkel, come ogni buon tedesco, non osa mai fare qualcosa contro la Francia. Insomma, mi lasci parlare da storico, è come se fossimo tornati alla fine dell'Ottocento, per fortuna senza cannoni e senza bombe, ma con la dinamica stessa. E l'Italia dove sta? È la più debole e oscilla tra i suoi, è incredibile, quasi all'Ottocento lei ha detto, quindi a Bismarck, come il suo libro Egemonia vulnerabile, la Germania, la sindrome di Bismarck, edito dal Mulino. Professor Rusconi tornerà con noi perché, ahimè, temo che la Germania nel bene o nel male sarà tema di altre puntate di Focus Economia. Intanto la ringrazio, così come ringrazio Fabio Pavesi e ringrazio come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana al programma in redazione. Un augurio di buon fine settimana soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi in diretta dal Cibus di Parma. Radio 24, la passione si sente.